l'Inghilterra ha dei legami commerciali radicatissimi con l'Europa, il 50% dell'interscambio è con i paesi dell'Unione Europea e quindi dipende dalla salute dell'euro quasi come un paese dell'Eurozona. È chiaro che poi su altri fronti la sterlina è diventata una specie di valuta rifugio, il gilt, cioè i buoni del tesoro inglesi hanno dei tassi che rasentano lo zero, perché si crea questa situazione, come dire, di paradiso relativo o comunque di paese rifugio in un momento di gravi difficoltà. Ma le difficoltà inglesi sono spesso sottostimate, cioè questo è un paese che è uscito dalla crisi del credito con più del 10% di deficit rispetto al PIL, che adesso ha corretto a circa l'8% dopo una stretta sulla spesa che non ha precedenti, perché è una stretta violentissima, che stenta a crescere perché quest'anno chiuderà al più 0,1% se ci sarà un effetto olimpico, perché i primi due trimestri sono nel segno di un'assoluta e secca recessione. Quindi è un paese che incomincia ad avere per la prima volta dopo tanto tempo un problema di occupazione, tradizionalmente non aveva, anche perché ha norme sul lavoro particolarmente flessibili. Quindi è un quadro globale di un paese in crisi esattamente come gli altri o in modo molto simile agli altri, con quell'eccezione, non da poco devo dire, della sterlina